sì, mi trovo in tipografia al Pigneto e qui praticamente, intanto prima di tutto, da parte di tutte le persone che vivono qua, che ci lavorano, che conoscono Damiano, perché comunque è un compagno che qua ci viene, già è conosciuto, eccetera, e quindi c'è un saluto collettivo, un grosso abbraccio, e poi insomma sappiamo che Damiano comunque è un compagno che ha tanta forza, tanto coraggio, e quindi siamo tutti pronti a sostenerlo. E quindi noi, siccome stavamo in questa 3 giorni, abbiamo insomma aperto questo spazio sociale che si chiama La Fucina 62, che si trova a via Ettore Giovenale qui al Pigneto, e praticamente è uno spazio sociale che inaugura in questi 3 giorni, come dicevi te, e volevamo dedicare insomma questa inaugurazione sia a Damiano che a tutti i compagni e compagne che in questi ultimi anni sono stati inquisiti in generale, ma in particolare per questa cosa della lotta contro il TAB, che è una lotta sacrosanta, una lotta giustissima, una lotta che non torna indietro, è una lotta che comunque ha 20 anni di storia, di movimento, che ha messo insieme un sacco di gente diversa, con provenienza, cultura e bagaglio sociale differente, e l'ha messa insieme per una lotta che non è soltanto territoriale della valle, ma che rappresenta tutte le categorie sociali in lotta, tutte le categorie che comunque in questa fase storica, durante la crisi, vengono tartassate, massacrate, gli vengono fatte passare sopra tutte queste politiche neocapitaliste, liberiste, eccetera, che tagliano lo stato sociale, costruiscono grandi opere per far fare milioni di euro, miliardi di euro di profitti ai soliti signoroni e ai loro lacchè politici. E quindi ritenevamo assolutamente che uno spazio sociale come questo, diciamo, potesse contenere in sé anche questo aspetto. Sicuramente è nato per produrre conflitto, e quindi che cosa più conflittuale oggi ed è più cosciente ed è consapevole come lotta che non quella della TAB, insomma, su cui poi abbiamo visto che negli ultimi anni si sono formati pure tanti compagni, anche a un modo diverso di gestire l'assemblea, un modo diverso di gestire la socialità tra compagni e compagne, e anche come bagaglio dei saperi, delle lotte che vanno dalla resistenza partigiana fino ai giorni nostri. E quindi per noi era molto importante, e difatti qui lo spazio che abbiamo aperto ha un po' queste caratteristiche, no? Perché comunque è fatto da tutta gente che abita, lavora o gira normalmente qui a Pigneto, da studenti universitari che hanno finito il loro ciclo appunto di studi e che quindi hanno deciso di mettersi a lavorare sul territorio per costruire reti, rapporti, legami solidali, da persone le più varie, anche qui di provenienza anche culturale, politica, con bagagli esperienziali differenti e anche generazionali. E quindi chiaramente la scommessa per noi oggi è questa, proviamo a sperimentarla nel quartiere dove viviamo, dove lavoriamo, però nello stesso tempo cerchiamo anche di collegarla a tutto quello che si sta muovendo a livello internazionale in termini di lotte, perché effettivamente vogliamo costruire un'articolazione movimento in cui dentro ci siano presentazioni dei libri, infoshop, insomma prodotti, autoproduzioni per costruire immaginario. E quindi ecco, questa è un po' la nostra ragione sociale, la nostra mission, diciamo. Poi chiaramente tu sai benissimo, con tutti i compagni, pure ascoltatori della radio, che il Pigneto, diciamo, è come un po' una rosa, no? C'ha tanti petali profumati che sono tutta la sua tradizione storica resistenziale, tutta diciamo 20 anni e più di reti sociali conflittuali, di strutture, di relazioni sane, antagoniste, non omologate, e dall'altra parte, come ogni rosa, c'ha le sue spine, cioè la speculazione edilizia, e cioè la speculazione commerciale, lo sfruttamento dei lavoratori dei locali della movida, la speculazione sugli affitti rispetto agli immigrati, eccetera, e so tutte Giuseppe Piaghe, che fanno parte della gentrificazione che questa città sta subendo in ogni territorio, in ogni quartiere, e contro cui noi vogliamo batterci fortemente, insomma. Senti Valerio, questo diciamo la dichiarazione di intenti. Poi per fortuna la dichiarazione di intenti è preceduta da una fitta serie di iniziative da adesso, perché avete in programma un pranzo sociale che comincia proprio fra pochi minuti fino a domenica sera, passando poi per la mobilitazione, come ci raccontavi tu. Praticamente in realtà oggi non c'è il pranzo sociale, in realtà guarda, è iniziato a mezzogiorno la proiezione del film Trastevere del 71 di Fausto Tozzi, che è un film proprio sul cambiamento urbano di Trastevere dagli anni 50 agli anni 70, e è molto in tema con quello che stiamo analizzando noi e stiamo approfondendo in queste settimane, da quando abbiamo messo in piedi questa cosa. Alle 17 ci sarà un incontro discussione con la libreria Calusca di Milano, perché diciamo tra le attività che facciamo è anche quella di biblioteca autogestita, e quindi ci interessava confrontarci con loro sul proprio il funzionamento di una struttura di questo tipo. E noi abbiamo tante cose da imparare ancora, e quindi chiaramente sappiamo che lo possiamo fare come tutte le cose in collettivo, sentendo pure i compagni che hanno più esperienza in questo. E poi nel pomeriggio si preparerà diciamo tutto quello che servirà per il corteo di stasera, che abbiamo lanciato appunto come concentramento qui a la piazzetta Persiani Nuccitelli, che tutti insomma conoscono bene, in quanto la piazza dove al Pigneto tutti gli anni ormai si fa il 25 aprile, e da lì partiremo in un corteo molto comunicativo, in solidarietà con Damiano. E poi diciamo dopo la preparazione pomeridiana del corteo, dalle 20 cominceremo la presentazione del libro Altre narrazioni di Andrea Fogli, che è illustrato dalle foto di Iskra, una compagna insomma che è ben conosciuta tra tutti noi, che ha diciamo corredato questo libro delle sue foto, ma che c'ha anche diciamo all'interno dello spazio sociale una mostra che resterà permanente per almeno una settimana su proprio le foto rispetto alle lotte Notab in valle. Alle 21 ci sarà una performance del Teatro Forte, una performance teatrale, e dalle 22 cominciamo a partire con il concerto, con il corteo, che sarà anche concerto, perché ci stanno Serpe in Seno, Pugni in Tasca e Ultima Colonna Crew, che ci accompagneranno nel percorso con i loro brani. E poi ci stanno sabato e domenica. E pure sabato va davanti? Cioè, sì, deve arrivare fino a domenica sera, almeno. Allora, sabato primo dalle 11 di mattina c'è una proiezione di un film documentario autoprodotto che si chiama Sulla servitù moderna. Poi diciamo durante la mattinata chiacchiere, incontri e via dicendo, e dalle 16 cominciamo la presentazione di alcuni video che insomma molti conoscono, insomma, che è una video inchiesta, è tutta una serie di video inchieste a cura di Occhi Rossi, per la regia di Chiara Ronchini, che sono in Prega Video, che è insomma abbastanza famoso, che sono interviste precarie in tempi di crisi, di Necessità Virtù, che parla della speculazione a Roma sul quartiere nuovo a Ponte di Nona, e RSI Treni in Dismissioni, che è la crisi del lavoro operaio, le politiche dei trasporti praticamente. E poi un altro video molto interessante, Good Morning Abissinia, che rappresenta un po' le strade dello sfruttamento e l'esperienza coloniale italiana in Africa e tutto quello che ha prodotto tra là e qua. E no, tanto per andare a confutare sempre questa l'ideologia degli italiani brava gente, insomma. Se ne parlava stamattina proprio appunto. E niente, poi alle 19 facciamo un aperitivo tra lo spazio sociale, il baretto Zazzi nel metrò, e alle 20 presentiamo il fumetto Mondo Scalzo di un ragazzo, poi tra l'altro, che lavora qua in uno di questi locali della Movida, che si chiama Roberto Cavoni, e il fumetto si chiama Mondo Scalzo e parla della storia dell'emigrazione tra la Libia di Gheddafi e l'Italia di Berlusconi. È un fumetto che ha un chiaro contenuto sociale, critica, insomma, che è molto interessante perché è un'autoproduzione veramente di quelle dal basso, insomma. E poi domenica dalle 12 facciamo un bel pranzo sociale al buffet, saremo, insomma, tutti insieme, vorremmo farci parecchie discussioni, parecchie chiacchiere sul territorio, sul quartiere, su quello che è la situazione del movimento in questa fase. E poi dalle 15, però molto libera, insomma, molto free, dalle 15 presentazione di opuscoli a cura della Rete Evasione. E questi due opuscoletti che sono usciti da poco e sono molto importanti, molto interessanti, uno strumento, diciamo, di autotutela collettiva assolutamente di primaria importanza, che uno è prima, durante e dopo un corteo, e l'altro è Guida per chi ha la sventura di entrare in carcere. E quindi in qualche modo ci autoformeremo sul come si fa e sul come ci si tutela in questi casi. E poi dalle 17 facciamo proprio l'assemblea di presentazione dello spazio Fucina 62, dove invitiamo chiaramente tutti quanti a partecipare, perché insomma non è che vogliamo soltanto parlare delle piccole iniziative che facciamo, che vogliamo mettere in campo, delle idee che abbiamo, le prospettive, ma perché anche, diciamo, vorremmo farlo collettivamente insieme a tutti, e quindi insomma critiche, suggerimenti e condivisioni varie sono sempre il sale che dà sapore alla nostra vita, insomma. E poi alle 19 facciamo un bel reading, ci sarà Attrice Contro che legge il romanzo Scontri di piazza di Marco Capocetti Boccia, con l'autore e con l'editore presente, e quindi si concluderà così questa tre giorni, dentro la quale ci saranno pure mostre fotografiche, insomma, e varie altre attività. Ecco, questa qua è, insomma, il nostro modo di presentarci al quartiere, e poi da lì, insomma, vedremo, insomma, se effettivamente a un certo punto ci renderemo conto che siamo riusciti a mettere in piedi quello che desideravamo, e se c'è una validità questa opzione, insomma. Senti Valeria, a proposito di questo, in chiusura, diciamo, all'inizio della nostra chiacchierata hai evocato quella parola famosa e terribile che si chiama, che è gentrificazione, che è l'italianizzazione, sì, è un termine inglese che, diciamo, in soldoni è quando dei quartieri popolari vengono in qualche modo riorganizzati e riabitati, e gli abitanti che c'erano prima vengono buttati via, sostanzialmente. Sì, esattamente, esattamente questo. Diciamo, se lo vediamo dalla nostra parte, se da un'analisi, l'analisi, diciamo, abbastanza esaustiva, subito, di che dipende sempre da che parte la guardi, perché da parte delle classi dirigenti gentrificazione è un'opportunità di grandi enormi profitti, mentre da parte della popolazione che normalmente vive nei posti è una questione di espropriazione, insomma, sentisse passa sul rullo compressore che ci espropria della vita, dei rapporti sociali, no? Tu pensa soltanto al quartiere Pigneto, ma ormai succede dappertutto, no? L'aumento degli affitti a seguito dell'arrivo di qualche infrastruttura pubblica o di qualche centro commerciale, a gente che non c'ha più i soldi per pagarsi, ai proprietari delle case che preferiscono magari mettere 5 studenti universitari a fargli pagare 300 euro un letto, piuttosto che tenesse magari famiglie o persone che storicamente, insomma, sono nate e vivono in quel quartiere, e che è proprio un pezzo di vita espropriata. da un pezzo di relazioni, cioè la catastrofe è la nakba individuale di tutti quanti alla fine, insomma, e quindi una cosa del genere, insomma, è chiaro che è una tendenza diffusa a livello mondiale, qui si stanno trasformando le metropoli, ma insomma noi dobbiamo anche in qualche modo di analizzare il fenomeno, capire come intervenire e insomma mettersi di traverso, rovesciare tutto il piatto, insomma. Sì, ti facevo questo, questo accenno perché appunto lì la zona dove state voi è proprio oggi uno dei fulcri di questo fenomeno, dopo che insomma finito il centro storico si comincia con le zone diciamo adiacenti e chiaramente il Pigneto è una di queste, quindi... Sì, ma tu pensa quanto in termini di valorizzazione del capitale diciamo è preponderante, è forte questa cosa, no? Che tu praticamente hai un quartiere dove tutti se la lamentano perché arrivano migliaia di giovani da tutte le parti di Roma a bersi una birra, e migliaia sono migliaia di birre, e quindi chiaramente ci stanno tutta una serie di problemi per cui ai cittadini, gli abitanti, no? Quello che ti piscia sul portone, quell'altro che fa casino fino alle 4 del mattino, già intanto c'è un problema di pianificazione urbana, perché se te a Roma su una popolazione di 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, praticamente c'hai quattro quartieri, tu la sera puoi prendere una biretta e vedere la gente, e chiaramente quei quattro quartieri diventano una preda, diventano il luogo di ritrovo, dove si fa quello, tutta Roma, insomma, e dove si fa quello, no? E quindi chiaramente che poi dica la gente che se ne deve stare a casa e non si deve uscire la sera a piena una biretta, a socializzare e a vedere le altre persone, poi te pisciano sui portoni, ma non ho capito per quale motivo non esista la possibilità di mettere i bagni pubblici quando ci stanno quei cessi delle macchine delle guardie che stanno là tutte le sere, potrebbero levare quelle e metterci i bagni pubblici al posto di quelle, no? E, per esempio, e poi voglio dire, tutto sto bailam, no, che poi spesso esce sulla stampa, sui media, sui giornali, però non si dice mai che tutto sto giro dei profitti, sto giro di ricchezze che vengono accumulate, che devastano il quartiere, poi si basano sulla pelle e sullo sfruttamento di migliaia di giovani dai 20 ai 50 anni che lavorano in maniera precaria, sottopagata, sfruttata, maltrattata dentro a sti locali della movida, con ritmi assurdi, con trattamenti veramente deprecabili, capito? E questi poi tra l'altro sono pure i locali che arrivano al pomeriggio, aprono, fanno i soldi, chiudono e se ne vanno, e del quartiere non gliene frega un cazzo, quindi se poi ci stanno problemi, spaccio, cose eccetera, non è che intervengono personalmente e insomma cercano di mediare con tutte le situazioni sociali che ci stanno, da affrontare i problemi collettivamente. Gente egoista che se fa i cazzi sua, che viene qua nel quartiere solo per fare i soldi, chiaramente, no? Però di questo insomma mi pare che emerga poco. Infatti noi una delle cose che vogliamo fare è proprio questa, un'inchiesta a tambur battente proprio sulle condizioni di lavoro che ci stanno al Pigneto nelle varie categorie, insomma, perché c'è un livello di sfruttamento e di produzione di plusvalore che fa paura qua. Va bene, Valerio, quindi avremo di che discutere domenica pomeriggio, sì, diciamo. Nella chiacchierata conclusiva. E che dire altro? Ti ringraziamo, ovviamente. Grazie il nostro voi, in bocca al lupo per tutto quanto. E, sì, grazie a voi, ricordiamo sebbene di stasera e dei giorni a venire, di fare attenzione a quello che il movimento NoTav in questi giorni sia a livello romano che a livello nazionale sta mettendo in piedi, sia per dare una giusta risposta, che non ci fermeranno mai a noi, insomma, e sia pure per insomma tutelare tutti questi compagni che comunque questi infami caselli in testa stanno cercando di restringere, insomma. Assolutamente, e sempre col sorriso sulle labbra. E sempre col sorriso sulle labbra. Va benissimo. Valerio, in bocca al lupo, ci vediamo questo weekend sicuramente. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao.